Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il rumore di una matita che corre frenetica su un foglio da disegno è un suono che accompagna la vita di molte persone. Disegnare è un'arte e per praticarla c'è chi fa più fatica degli altri e chi invece riesce a trasferire su carta quell'immagine ben chiara e definita che viene elaborata nella propria testa. A volte capita in qualche trasmissione televisiva di vedere all'opera vignettisti che in diretta muovono la punta di un pennarello come se l'immagine fosse già lì sopra un foglio che a tutti appare bianco, immacolato, ma che per loro contiene già ciò che vogliono disegnare. Per questo tipo di arte ci vuole anche un senso dell'umorismo molto sviluppato, perché la vignetta non deve solo essere disegnata bene, ma deve anche far ridere. Però stasera mi trovo in imbarazzo, no? Mi raccomando, facci perché piano. L'informazione, appunto per quello mi trovo in imbarazzo. Ci possono essere ragazzini davanti allo schermo. Infatti, ultimamente, ormai solo TG a luci rosse. Sarà meglio mandare a letto la bambina. Con chi? No, che è un problema. Se invece si vuole raccontare una storia, allora il disegno diventa fumetto. Non si parla più di una singola immagine che deve far divertire in modo istantaneo, ma si tratta di veri e propri racconti che vengono narrati con uno stile grafico che cambia a seconda del tipo di storia a cui si riferiscono, ma che rimangono come un segno inconfondibile e distintivo di un determinato personaggio. L'Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, Capitan America sono solo alcuni dei più importanti personaggi nati dal genio di Stan Lee. Pubblicati nelle collane della Marvel, questi supereroi sono diventati famosi in tutto il mondo. In Italia, il merito della pubblicazione di questi fumetti è da attribuire all'editoriale Corno, una casa editrice di Milano che a partire dal 1970 inizia a dedicare buona parte delle sue pubblicazioni proprio all'Uomo Ragno e ai Fantastici Quattro, diventando in poco tempo l'editore esclusivo della Marvel in Italia. I fondatori di questa casa editrice hanno iniziato insieme 10 anni prima con il nome di Edizioni Serpente Volante. Successivamente la società cambia denominazione, prendendo il cognome di uno dei due, Andrea Corno, che si occupa esclusivamente dell'attività editoriale. Il settore artistico, invece, quello legato alla produzione delle sceneggiature dei fumetti pubblicati, è affidato a Luciano Secchi, che però sul lavoro adotta un nome molto più accattivante, come se lui stesso fosse un personaggio di un fumetto. Max Bunker. Max Bunker. Sì, Luciano è soprattutto un grande autore, insomma, lui è scrittore di successo, ha scritto anche dei libri importanti, ma soprattutto un grande autore di storie e fumetti, no? Guido De Maria, disegnatore, autore e pubblicitario, ha contribuito a creare personaggi famosi come Nick Carter. Destini incrociati lo ha incontrato a Milano e ci ha raccontato molte cose interessanti sui suoi amici fumettari, come lui stesso ama chiamarli, e in particolare su Luciano Secchi, alias Max Bunker. È un uomo un po' particolare, con un grosso senso dell'umorismo, del sarcasmo, ecco. Bisogna stare attenti quando si parla con Luciano Secchi, perché c'è il rischio di sentirsi un pochino così presi per il colletto. Sono sempre stato appassionato di fumetti. Dick Fulmine e Mandrake erano i miei preferiti. Io e i miei amici ce li scambiavamo in continuazione. Luciano Secchi, in arte Max Bunker, è un personaggio estremamente riservato. Raramente concede interviste. Destini incrociati è riuscito a contattarlo e intervistarlo solo via email. Lo ringraziamo per averci autorizzato a fare interpretare le sue risposte a una delle nostre voci. Ma io credo che abbia iniziato proprio con Corno. Tanto con Corno, infatti, lui era direttore di Eureka. E curava anche le collane che produceva l'editore Corno. Eureka è la rivista di fumetti che Max Bunker ha fondato con Maria Grazia Perini e che per quasi 20 anni è stata un punto di riferimento del fumetto italiano. Luciano Secchi la dirige mentre contemporaneamente lavora al lancio degli altri prodotti dell'editoriale Corno. Nel 1960, quando iniziamo le prime pubblicazioni, non fu per niente facile, ma lentamente riuscimmo a creare quella base che ci permise di allargare l'orizzonte editoriale della casa editrice ed iniziare nuove produzioni. Dopo i primi 2 anni di attività, durante i quali vengono pubblicati tra gli altri L'Ardimentoso e Superalbo Gordon, esce Maschera Nera, un fumetto western scritto da Max Bunker e disegnato da Paolo Piffarerio. Con Paolo iniziamo a lavorare su generi diversi, per esempio si lavorava sul western, con il gringo, e contemporaneamente su Atomic, che invece era di genere fantascientifico. La mia testa ribolliva in continuazione, passavo in un attimo da un duello sotto il sole a un inseguimento intergalattico. Nelle edicole di tutta Italia, intanto, è arrivato Diabolic, il fumetto tascabile ideato dalle sorelle Giussani, e così l'editoriale Corno comincia a pensare a nuove serie che possano contrastare il successo di Diabolic. Io non ho mai disegnato, ho sempre preferito scrivere, e quindi per me trovare un disegnatore che sapesse trasportare su un foglio di carta quello che stavo inventando è sempre stato fondamentale. Con Piffarerio si lavorava bene, ma con Diabolic, che faceva sfracelli in edicola, avevamo bisogno di qualcosa di veramente forte. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono, e bene e il male accendono. Oh, quando affronti le tue lotte, tu fai sempre tutto quel che puoi per arrivare dove vuoi. È un'impronta il tuo nome, lasci il segno Diabolic. Wow, è un'impronta il tuo nome, lasci il segno Diabolic. Wow, è un'impronta il tuo nome. Siamo a Milano, negli uffici dell'editoriale Corno. Luciano Secchi, alias Max Bunker, ha appena ricevuto una busta. All'interno ci sono dei disegni e un curriculum. Nelle edicole Diabolic e Devacant stanno riscuotendo un successo strepitoso e Secchi, in qualità di direttore artistico, deve trovare dei nuovi personaggi per rilanciare la Corno. Ha in mente alcune storie che trattano di argomenti che nessuno fino a quel momento ha osato affrontare, considerati dei veri e propri tabù. Siamo agli inizi degli anni 60. Scrivere dei fumetti che parlino di sesso e violenza è molto rischioso. Se proprio bisogna farlo, il prodotto editoriale deve essere di altissimo livello. Criminal e Satanic erano già nella mia testa. Scrivere le loro storie non sarebbe stato un problema. Il problema era invece trovare un nuovo disegnatore che facesse nascere dal nulla un nuovo modo di disegnare. Sul tavolo di Luciano Secchi scorrono uno dopo l'altro i disegni che ha appena tirato fuori dalla busta aperta poco prima. Sono bellissimi. E l'autore è un giovane insegnante di disegno di Bologna, diplomato all'Accademia delle Belle Arti, che saltuariamente fa il grafico pubblicitario e il vignettista satirico. Il suo nome è Roberto Raviola, ma lui ama firmare i suoi disegni con lo pseudonimo di Magnus. Magnus. Sono un grandissimo disegnatore, straordinario. Ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente. È veramente uno dei grandi del fumetto italiano. Dai ricordi personali di Guido De Maria cominciamo a conoscere un disegnatore dalla cui matita sono nati personaggi memorabili. Una persona che ama disegnare qualsiasi soggetto, anche quando il comune senso del pudore degli anni 60 si ritiene, come dire, offeso. Mi ricordo che io visitai, appunto cercando di disegnare fumetti, ma ero ancora al liceo artistico, la redazione del Vittorioso, e il caporedattore Nando Marchi correggeva le tavole dei disegnatori dove ci fosse una fanciulla, una signora prosperosa, pur se coperta. Mi ricordo una nota che scriveva: appiattire, appiattire. Raviola è un bravo disegnatore e ha una grande passione per le donne. Ama disegnarle e, se può, ama esaltarne le forme. Ma la caratteristica dominante nei suoi disegni è una certa rudezza che gli permette di descrivere nei minimi particolari i lati peggiori del genere umano. Ecco perché Luciano Secchi è rimasto folgorato dalla bellezza dei suoi disegni ed ecco perché decide di dargli una opportunità. Come ci siamo conosciuti? Davvero vuoi saperlo? Lasciami pensare un po' e poi te lo dico. Per ora posso solo dirti che quando vidi quei dannati disegni mi sembrarono i più adatti a descrivere le storie che volevo raccontare. Luciano Secchi ha in mente due personaggi, Criminal e Satanic, con i quali inizia il cosiddetto filone noir del fumetto italiano. Questi due antieroi incarnano sentimenti come la vendetta, l'odio, ma malgrado siano esempio di valori negativi, riscuotono un notevole successo. Criminal e Satanic ebbero un successo quasi immediato, cioè vennero riconosciuti immediatamente per quello che il pubblico voleva e quindi acquistati. Luciano e Roberto si trasformano immediatamente, sin dal loro primo incontro negli uffici dell'editoriale Corno, in quella coppia di ragazzacci che con il nome di Max Bunker e Magnus riempiono le edicole di storie basate sul sesso e la violenza, suscitando l'indignazione in alcuni e l'ammirazione in altri. E poi c'era questa capacità proprio di sentire insieme i personaggi, voglio dire, perché io credo che, ecco, Lone ha incominciato con i due personaggi un pochino anche oggi discussi, che erano criminal e satanic, insomma, al limite qualche volta satanic della decenza, insomma, hai capito? Perché la Viola disegnava delle donine che erano straordinarie, e criminal, insomma, sfiorava il limite di una morale corrente, perché, insomma... i morti ammassati ce n'erano tanti. Come sottolinea Guido De Maria, si parla di fumetti noir. Eppure, come nella migliore tradizione, proprio questi eroi negativi raggiungono un livello di notorietà così alto che Criminal diventa anche un film. Mani sul volante, Criminal. Ma brava, il colonnello Watt, il cane di Polly, ora capisco. Alla festa mi stavi sorvegliando. Però Milton, per essere un poliziotto, ha buon gusto. Sei tu piuttosto che... È inutile, sai, con me non attacca. Hello? Qui Gloria Farr, datemi l'ispettore Milton. Sono io. Ah, sei tu, Brad. Ah, finalmente, Gloria. Ma dove diavolo ti eri cacciata? Ho seguito le tue istruzioni, caro. L'ho preso. Grazie, darling. Criminal, sto arrivando. Con Criminal e Satanic, l'editoriale Corno fa il salto di qualità che le permette di acquisire credibilità nel mercato dell'editoria. La coppia Max Bunker e Magnus sforna in 10 anni più di 400 numeri di Criminal e oltre 200 di Satanic, collezionando però anche una quantità esagerata di denunce. Abbiamo scatenato un putiferio in quegli anni. Per le denunce andavamo a peso, non ci facevamo neanche più caso. Tanto poi alla fine venivamo assolti. Noi vogliamo raccontare le storie di un assassino efferato. Però, nello stesso tempo, come succede ad esempio in Nightmare, i giovani hanno parteggiato per lui, ma non perché siano assassini efferrati, ma per uno strano, misterioso senso di ironia che possiedono, per cui tanto li impressionava e in negativo e tanto li affascinava. Negli uffici milanesi della Corno si respira un'aria particolare. Tra i corridoi non si fa altro che parlare di assassini, di criminali, di sesso. Erano considerati fumetti erotici perché allora la presenza femminile doveva essere castissima. Le storie di Criminal e Satanic sono storie di rottura, escono dagli schemi classici del fumetto. Forse proprio questo è il motivo alla base del successo ottenuto. Quindi un grande disegnatore e un grande autore hanno creato dei grandi personaggi. Malgrado le denunce e le critiche negative, i fumetti raggiungono comunque un successo notevole e la coppia Max Bunker e Magnus presenta negli anni successivi altri personaggi che forniscono ossigeno alla casa editrice. Dopo i successi di Criminal e Satanic, io e Magnus iniziamo a scrivere una storia di spionaggio. Il protagonista era Dennis Cobb, agente SS-018, e anche quella andò bene. Con Magnus era divertente scrivere perché lui riusciva sempre a trovare il tratto, il disegno ideale per rappresentare i miei personaggi. La cosa straordinaria è che ha scoperto Roberto, che è diventato il suo disegnatore. È la mano che racconta le storie di Luciano Secchi. Il rapporto tra Max Bunker e Magnus si salda sempre di più e diventa un marchio di fabbrica. Non esiste nessun personaggio di Max Bunker che non trovi una corrispondenza in un disegno di Magnus. Due professionisti che lentamente diventano amici e cominciano a pensare con una sola testa. Sia in Criminal e Satanic, sia tra le strisce di Agente Cobb, fa poi capolino un nuovo personaggio che per il momento è solo una comparsa occasionale, ma che sta crescendo nell'immaginario del suo autore, Max Bunker. Magnus ne disegna i lineamenti, è un uomo bello, dal sorriso accattivante, assomiglia a un divo del cinema, una faccia da schiaffi. Ancora l'autore e il disegnatore non sanno che sta nascendo il loro figlio prediletto, quello che li farà passare alla storia. Grande figlio. qualche amico per me. Uno che ruba anche la luna, se la deve dare a te. Sotto l'ombra del cappello. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi racconta la storia di uno dei fumetti più famosi d'Italia, nato dal sodalizio artistico tra un grande autore di fumetti e il suo disegnatore, Max Bunker e Magnus. Sulla scia del successo di Criminal e Satanic, l'editoriale Corno va alla ricerca di nuovi soggetti da pubblicare. La collaborazione tra Luciano Secchi e Roberto Raviola è ormai cementata e i due si dedicano al lancio di nuovi personaggi, come per esempio Jezebel, che però ha vita breve. Nel 1970 inizia la pubblicazione dei fumetti della Marvel americana, le famose collane di supereroi. Se volessi dare una versione poetica di come scoprì questi fumetti, potrei dire che li vidi di sfuggita in un'edicola di Forte dei Marmi. Fui attratto dalle copertine variopinte di Spider-Man, Fantastic Four, Silver Surfer. Li acquistai tutti. E quando tornai a Milano cercai di trovare la persona che ne controllava i diritti. La persona in questione, come lo stesso Max Bunker racconta in una recente intervista per il Corriere della Sera, è una gentile signora che attende dalla Mondadori un'offerta per la pubblicazione. Per Max Bunker non ci sono mezzi termini e l'editoriale Corno riesce ad aggiudicarsi l'esclusiva di tutti i fumetti Marvel, che in poco più di un anno esplodono anche in Italia, rivoluzionando il mondo del fumetto. Pubblicare in Italia i fumetti della Marvel fu proprio una cosa marvelosa. Solo un anno prima, però, nel 1969, inizia la pubblicazione di un nuovo album che nasce da un personaggio apparso di sfuggita nelle avventure di Criminal, di Satanic e dell'agente Cobb. Un giovane grafico pubblicitario che proprio nell'album di esordio entra in contatto con uno strano gruppo di sgangherati agenti segreti che vivono a New York e che come copertura hanno un negozio di fiori tra la Quinta e la Sesta Strada. Il suo nome è Alan Ford. Salve, sono l'agente Larrigan del 26° distretto. C'è il capo. Alan, ho paura. Hai visto che brutta faccia quello lì? Allora, questo capo c'è o non c'è? No, è uscito e non sappiamo quando torna. Vabbè, allora tornerò più tardi. Se si fa vivo nel frattempo, ditegli che sono stato qui. Felice notte. Mamma mia. Anche se il primo anno di pubblicazione e le vendite degli album non sono esaltanti, Max Bunker continua imperterrito a inventare storie su Alan Ford e il gruppo TNT, che nei preziosi disegni di Magnus trova ancora una volta la trasposizione grafica della sua creatività. Per Alan Ford ci è voluto un certo gioco, ma è successo che Alan Ford, appunto reggendo questa sua, diciamo, gavetta, ha dovuto fare questa gavetta, ha conquistato un pubblico di lettori molto vasto, per cui veniva comprato per esempio anche dal pubblico femminile. E poi c'è la cariatide, che è il suo braccio destro. Non è certo il più lesto nel gruppo TNT. Costui è Otto Krum, tedesco, teacher mania. Yeah. Di lui nessun si lagna nel gruppo TNT. Bom, bom, bom. TNT. Il gruppo TNT. Eccolo qui. Per mettere a punto tutti i personaggi del gruppo TNT, io e Magnus lavorammo per 3 anni, delineando per ogni singolo elemento tutte le combinazioni possibili del carattere e delle espressioni. Il lavoro di Magnus fu enorme. C'erano bozze di disegni ovunque. Il gruppo TNT è formato da 7 elementi, compreso il cane spia. Ma i personaggi che ruotano attorno a questo gruppetto sgangherato sono molti di più. Per ognuno di loro, Luciano Secchi, alias Max Bunker, descrive nei minimi particolari la loro personalità. Quindi molto bravo, una fantasia sfrenata per certi versi. Io lo prendo sempre in giro perché dico, la tua storia sono anche piccole storie, poi hai le digressioni, tu apri delle parentesi e parti per la tangente, lì allarghi la tua storia fino a farla diventare un volumetto di 98 pagine, quelle che sono, insomma. Guido De Maria è un vero esperto del fumetto italiano e conosce bene Luciano Secchi, ma ha conosciuto anche Magnus e si ricorda che nella sua casa, nel suo ufficio, ovunque lui fosse, la caratteristica comune era l'enorme quantità di disegni che sparpagliava dappertutto. Che lui li faceva su carta quadrettata, insomma, su carta quadrettata, poi colorata così con delle tempere, erano dei capolavori e che non è possibile riprodurli perché sono su carta quadrettata, insomma, la follia era questa, che erano cose che lui avrebbe buttato via e che sono di una bellezza, insomma, da veramente un grande disegnatore. Un grande disegnatore che incontra un grande autore. Ecco da dove deriva il successo di Alan Ford e del gruppo TNT. Alan Ford è il bello del gruppo, come dice la canzone stessa, e ricorda un famoso attore irlandese. Grottesco, comico, divertente, poi ispirato ai personaggi, per esempio, non so, Alan Ford recupera le sembianze di Peter O'Toole, per esempio. E a guardar bene anche gli altri personaggi hanno delle somiglianze con persone del mondo reale. Bob Rock, per esempio, con il suo grande naso, è la caricatura di Magnus. E per quel che riguarda il numero uno, Guido De Maria ha una sua personale interpretazione. Ma secondo me nel numero uno c'era dentro Luciano Secchi, no? Luciano Secchi era un personaggio da... per carità, noi siamo molto amici, ma io lo prendo sempre in giro, dico perché... Perché lui è veramente l'editore attento, capace, pronto a cogliere, capito, le debolezze anche dei suoi disegnatori, insomma. Prendete il signore e mettetelo nella stanza d'osservazione, ma se è necessario, camicia di forza. Imbecillito, stai scherzando, spero! Da bravo, vieni con noi, non fare storie! Mettetemi giù o ve la farò pagare cara! Gli album di Alan Ford e del gruppo TNT vengono pubblicati ininterrottamente dal 1969 e anche se a un certo punto a Magnus si affiancano altri disegnatori, Max Bunker rimane comunque l'unico autore di tutte le avventure del gruppo di agenti segreti più squinternato della storia del fumetto. Destini incrociati. Il mondo del fumetto italiano ha visto nascere alla fine degli anni 60 un album che ancora oggi, dopo oltre 500 numeri, viene ancora pubblicato. Alan Ford e il gruppo TNT. L'autore di tutte le storie raccontate in questi anni è Luciano Secchi, alias Max Bunker, che ha incontrato il disegnatore che ha saputo rappresentare alla perfezione i suoi personaggi, Roberto Raviola, in arte Magnus. Agente Alan Ford! Il verde Dio! Conte Oliver! Mare di Fada! Cariapide! Tutta trippa! Geremia! Quanto è brutto! Bob Rock! Tutto naso! Chirano! Tutto pulci! Qual è il primo dovere del gruppo TNT? Combattere il crimine. Notte? Eddie. Siete al corrente di Super Chuck? Certo. Molto benissimo, perché d'ora in poi il vostro obiettivo sarà catturarlo. Capito? Il successo di Alan Ford e del gruppo TNT arriva alla consacrazione con l'album numero 26, quello in cui compare Super Chuck, il supereroe negativo che combatte i suoi nemici a colpi di alito, rinfrescato da un bel fiasco di vino. Il personaggio di Super Chuck servì a dare un nuovo scopo al gruppo, che così aveva un nemico in più da combattere. Per questo personaggio mi sono ispirato al mio portinaio, che come si dice in milanese l'era sempre Chuck, sempre ubriaco. Le vendite di Alan Ford subiscono un'impennata e in poco tempo l'album diventa campione di vendite in edicola. Max Bunker e Magnus sono una coppia eccezionale e la loro produzione entra di diritto nella storia del fumetto italiano. Ma come ogni favola dal finale noir, dopo 6 anni di lavoro continuo, Magnus, nel 1975, decide di lasciare il suo compagno di avventura Max Bunker e annuncia di non voler più disegnare Alan Ford. Questa è una cosa che stupì tutti noi del mondo del fumetto. E noi, quando noi fumettari, o telefumettari, quando sentimmo di questa separazione, rimaneva sorpresi, quasi sgomenti, perché ci sembrava una cosa che non potesse mai succedere, no? Però succede nei matrimoni migliori, quindi secondo me anche in questo, che era veramente un bel matrimonio, probabilmente c'è stato qualcosa che ha mandato così un po'. Alcune notizie relative a questa separazione sono vaghe e contrastanti. Alcuni dicono che sia stata una questione di soldi, altri che sia stato un litigio tra due uomini testardi, nessuno dei quali ha voluto ammettere di avere torto. Le notizie sono così confuse in proposito che neanche il gruppo TNT è riuscito a dare una risposta a questo enigma. Resta il fatto che le strade di Max Bunker e Magnus nel 1975 si dividono. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori, è una fantasia piena di amori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai, lo è senza un saluto, casomai. Dopo 6 anni di stretta collaborazione, durante i quali escono nelle edicole di tutta Italia gli album di fumetti intitolati ad Alan Ford e al gruppo TNT, Max Bunker, l'autore, e Magnus, il suo disegnatore, hanno deciso di separarsi. Le ragioni precise di questa rottura non si conoscono. Certo è che ci troviamo di fronte a due persone con un carattere diverso, come ricorda Guido De Maria. Come carattere, Luciano, è uno abbastanza schivo, abbastanza... Io lo considero un timido che quando vuole uscire da questa timidezza, addirittura dico, non dico che ti aggredisce, però insomma è abbastanza... stare davanti a lui con un certo rispetto. Il carattere deciso di Max Bunker ha probabilmente la meglio su Magnus, che invece non ha mai dimostrato di avere un temperamento focoso come il suo compagno di avventura. Ma sai, Magnus ha avuto una vita avventurosa, era un personaggio anche lui straordinario, me lo ricordo, era un personaggio anche strano da un punto di vista proprio così, umano, insomma, uno che non stava mai fermo, era sempre un irrequieto, uno che, ricordo che si era incastonato un brillante inondente, no? E sembrava Tony Curtis nella Grande Corsa, capito? Quando apriva la bocca, cing, c'era questo scintillio. Con l'abbandono di Magnus, però, Alan Ford non chiude i battenti. Max Bunker, come autore delle storie, continua a scrivere e uno dopo l'altro molti disegnatori si succedono per raccontare le avventure del gruppo TNT, senza però mai raggiungere, a detta dei milioni di fan che continuano a leggere il fumetto, l'eccellenza dei disegni di Magnus, che rimane l'unico insostituibile creatore dei loro volti. Magnus non c'è più. Roberto Raviola ci ha lasciati qualche anno fa, in silenzio, quasi dimenticato, a Castel del Rio, dove in un albergo che in inverno rimane chiuso al pubblico, ha condiviso l'ultimo periodo della sua vita con un altro grande del fumetto italiano, Bonvi. Di lui ci resta il divertente ricordo di Guido De Maria. E mi ricordo che quando io chiedevo a Bonvi, ma voi cosa fate in questo albergo tutto l'inverno? E Bonvi faceva, ci corriamo dietro per i corridoi, facciamo shining, shining, shining. Vi abbiamo detto all'inizio di aver cercato di contattare Luciano Secchi per un'intervista, ma l'unica cosa che siamo riusciti a ottenere è stata una sequenza di email. Anche adesso non è facile parlare con Luciano Secchi, insomma, capito? Ha sempre dei filtri, poi non è mai in studio, invece è in studio, capito? Non, c'è la mattina, dovrebbe essere il pomeriggio, invece no, c'è la pomeriggio e dovrebbe essere la mattina. È difficilissimo parlare con Luciano Secchi. L'ultima email che ci ha mandato riguarda la sua personale versione del suo primo incontro con Roberto Raviola. Noi non ci abbiamo creduto, ma ci diverte pensare che l'incontro tra Max Bunker e Magnus possa veramente essere andato così. Avevo appena legato a un palo della luce la mia bicicletta da corsa, un telaio legnano con manubrio bianchi, pedali Ganna, ruote ATA, la fermapiedi senza marca, quando una Lamborghini di orrido color giallo polenta si parcheggiò schiacciando col paraurti la mia bici. Alle mie rimostranze l'automobilista non molto alto, abbronzato con occhiali da sole Ray-Ban, mi apostrofò: «Ehi tu barbone, porta via quell'ammasso di rottami e dammi il tuo indirizzo per il rimborso, hai sporcato il mio paraurti». Io presi quello che rimaneva della mia povera bici, materiale accartocciato, e glielo misi sul sedile posteriore. Mi porti subito alla prima officina e ci facciamo fare un preventivo per il rimborso danni. Ha ha ha, fu la risposta. Se le pago un gin tonic va bene. aggiunga almeno uno stuzzichino. Così in allegria mangiamo e bevemo. Poi gli chiesi: scusi, che mestiere fa per permettersi un'auto del genere? Io rispose: rubo macchine. Lei? Beh, risposi arrossendo, rubo parti staccate delle bici e poi le monto e ne faccio una. Sa una cosa, mi disse, lei mi piace, penso che non sia un caso che ci siamo incontrati. Forse insieme possiamo combinare qualcosa di buono. Così fu come Max Bunker e Magnus si conobbero.